Altogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. 6 giovani su 10 vivono in casa con i genitori fino ad oltre 30 anni, dice l'Istat, crescono le disuguaglianze. Sono stati ritrovati i rottami dell'aereo Egyptair precipitato in mare e la Marina del Cairo sta cercando la scatola nera. È stato arrestato in Portogallo il killer del catamarano, uccise una skipper nell'88 e fuggì dal carcere 2 volte. Mondo della scuola in piazza e in sciopero, i sindacati chiedono il rinnovo del contratto, a Roma parzialmente fermi anche i bus e caos in centro. Immigrazione, una delegazione italiana verso il Niger per il Migration Compact. In Europa intanto si discute di hotspot galleggianti. Corruzione, è stato arrestato il sindaco di un micro comune, si tratta di Argentera nel Cuneese con 77 abitanti. Claudio Ranieri sarà grande ufficiale della Repubblica, Mattarella firma il decreto. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Oggi vi trasmettiamo, se sentite l'audio un po' strano, con un po' di rumore di sottofondo, vi trasmettiamo dall'Investment and Trading Forum di Rimini, dal quale vi hanno anche trasmesso Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone. I nostri contatti sono i soliti, il 349-238-6666 per i vostri sms, seguite il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno per un po' di confusione. Oggi non siamo riusciti a darvi l'aggiornamento quotidiano, l'anticipazione sui temi tramite il nostro canale Telegram. In apertura dunque il rapporto dell'Istat sulla situazione del paese. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, un rapporto quello di quest'anno che coincide con il 90° compleanno dell'istituto e allora l'occasione non solo per una fotografia sull'attualità ma anche per un'analisi degli ultimi decenni con i cambiamenti sociali che hanno interessato le varie generazioni, l'invecchiamento progressivo della popolazione, le esigenze di welfare legate a questa evoluzione, il ruolo della famiglia e poi il fenomeno dell'immigrazione, il tutto in un contesto che vede dal 2008 il peso della crisi economica e solo da qualche trimestre l'inversione di tendenza. Di segnali incoraggianti parla allora il presidente dell'Istat Alleva, sentiamo. Abbiamo una conferma di questa ripresa in questo primo trimestre, anche le previsioni sono positive, non è una crescita ancora vigorosa, non interessa ancora l'intero paese, il panorama di tutti i settori, ci sono ancora settori che sono stazionari, tuttavia abbiamo una conferma dell'espansione moderata in corso e in particolare la novità di quest'anno è che oltre ai consumi delle famiglie una spinta avviene anche dal lato degli investimenti e questo dopo tanti anni di deficit è un tema importante. Bene il Jobs Act secondo l'Istat con il suo appeal sulle PMI, i problemi, segnala l'Istituto di Statistica, restano però tanti, dall'occupazione per giovani e donne ai trentenni che per forza di cose pesano sulle famiglie, 6 su 10 vivono proprio ancora in famiglia, un welfare tra i meno efficaci ed ancora il 19% dei minori che vive in uno stato di povertà relativa. È tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento e questo sarà uno dei temi sui quali torneremo più avanti. Come vi dicevamo, siamo in diretta dall'Investment and Trading Forum di Rimini e ci occuperemo proprio di questi giovani. Avete sentito, 6 su 10 restano in casa, alcuni fino a 30 anni, ma come si comportano dal punto di vista finanziario e quanto sono importanti. Ci torneremo più avanti appunto nel corso di Effetto Giorno. Intanto veniamo agli altri aggiornamenti a partire dall'aereo dell'Egyptair precipitato in mare. Livia Zancanelli. Buongiorno. Buongiorno Simone. Oltre 30 ore dopo la scomparsa del volo Egyptair Parigi-Il Cairo, le forze armate egiziane annunciano di aver trovato resti dell'aereo ed effetti personali dei passeggeri a 290 km a nord del porto di Alessandria. Già ieri si era parlato di un ritrovamento, poi smentito in acque greche a 130 miglia a sud dell'isola greca di Karpathos. Sul posto ci sono navi provenienti da Francia, Grecia ed Egitto. Si cercano le scatole nere che daranno indicazioni sulle cause della tragedia. Si parla di attentato, di un possibile esplosivo a bordo dell'aereo, ma al momento nessuna ipotesi è da privilegiare. Ha ribadito questa mattina il ministro degli esteri francese Ayrault. Frena anche Mosca, è troppo presto per trarre conclusioni, dice il ministro dei trasporti russo. Per Sharif Fatih, ministro egiziano, invece più probabile un attacco terroristico di un guasto tecnico. Al Cairo questa mattina per partecipare alle indagini sono arrivati gli inquirenti francesi e un esperto tecnico dell'Airbus. Alle famiglie delle 66 vittime le condoglianze del presidente egiziano Al-Sisi. Ed è tutto. Grazie Livia Zancaner per questi aggiornamenti, l'analisi di Alberto Negri. Il ministro dell'aviazione egiziano ha dichiarato che la probabilità di un attacco terroristico è maggiore di quella di un guasto tecnico per spiegare la scomparsa dell'aereo Egypt Air decollato dal Charles de Gaulle di Parigi. Perché gli egiziani hanno accreditato subito, senza alcuna certezza, l'ipotesi dell'attentato? Per il generale al-Sisi, questa è una buona occasione per dimostrare che le falle della sicurezza egiziana sono pari almeno a quelle francesi. Le disgrazie degli altri giustificano le proprie inettitudini. Il 31 ottobre scorso gli egiziani fecero di tutto per deviare i fondati sospetti dei servizi di Mosca che avvaloravano lo scenario di un attentato nella scomparsa dell'Airbus 321 sopra Sharm el-Sheikh. Per i francesi questo attentato è un altro colpo al cuore del sistema di sicurezza. Tra qualche settimana cominciano i campionati europei di calcio. Come non ricordare che gli attentati di Parigi sono iniziati proprio allo Stade de France? La Francia fa molti affari col mondo arabo musulmano e conduce diverse operazioni militari. Oggi dei paesi europei sicuramente quello più nel mirino dei jihadisti. Ma finché l'Occidente non cambierà la sua ambigua politica medio orientale, basata più sugli interessi economici che sul reale benessere dei nostri vicini, la nostra sicurezza resterà sempre in bilico. È in corso lo sciopero della scuola con manifestazione e c'è anche un mezzo sciopero dei mezzi pubblici a Roma. Non abbiamo capito quanto confermato, quanto no, e quindi la città è un po' in confusione. Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Allora partiamo dalla scuola. A scioperare oggi è tutto il personale del comparto. Parliamo di docenti, dirigenti anche del personale ATA che protestano in tutta Italia. Al momento non ci sono ancora dati sull'adesione. Le iniziative si sono svolte stamattina in diverse città, ma il corteo principale è quello che si è da poco concluso a Roma, qui davanti al Ministero dell'Istruzione, da dove vi sto parlando. È stata una protesta indetta da CGIL, CISL, UIL e SNALS. I sindacati continuano a contestare diversi aspetti della riforma della scuola che, tra l'altro, a loro giudizio non ha ancora risolto del tutto il problema del precariato, ma chiedono anche il rinnovo del contratto che è fermo ormai da anni, una richiesta questa che ieri è stata giudicata in qualche modo legittima dal ministro Giannini, che però ha ricordato che il blocco dei contratti riguarda tutto il settore pubblico e ha ricordato anche il ministro che il governo ha stanziato dei fondi per incentivare in qualche modo gli insegnanti. Il governo non può fare le orecchie da mercante e ha il dovere di aprire il confronto con i sindacati. È stata la replica arrivata stamattina dalla segretaria generale della CISL Furlan. Simone. Grazie Andrea Viali per questo aggiornamento. Parliamo di migranti ora. Obiettivo Niger. Roma e Bruxelles hanno individuato nel paese africano l'interlocutore giusto per realizzare un accordo che ha come modello quello stretto fra l'Unione Europea e la Turchia, che ha permesso di chiudere la rotta balcanica. L'idea è quella di pagare il paese africano perché faccia da barriera ai flussi che dall'Africa arrivano verso la Libia e poi in Italia. La conferma arriva dal ministro degli interni Angelino Alfano, a margine del Consiglio Interni Europeo. Sul Migration Compact, ha detto Alfano, abbiamo avuto grandissimo sostegno. Il ministro poi è tornato anche sull'ipotesi di hotspot galleggianti. E poi ha negato qualsiasi divergenza con il Premier. Se serviranno nuovi hotspot, noi ci facciamo trovare pronti all'appuntamento che serve anche a noi. È evidente che se non dovessero servire, il più felice sarò io, e quindi non c'è nessuna differenza di posizioni con il Presidente del Consiglio. Sul flop dei ricollocamenti, poi, il commissario europeo all'immigrazione Dimitris Avramopoulos non ha nascosto, entrando, la sua delusione per i risultati molto scarsi. La solidarietà, ha detto, non può essere applicata alla carte. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Apre tra poco la camera ardente di Marco Pannella. Dal Dalai Lama che dice prego per lui al Vaticano, dal centrodestra al centrosinistra, scrittori e cantanti. Il cordoglio accomuna tutti per la scomparsa di Marco Pannella, l'anagrafe Giacinto Pannella, nell'arco di queste 24 ore circa dalla sua scomparsa. Istituzioni, politici, militanti radicali e semplici cittadini si preparano a dare l'ultimo saluto al politico italiano abruzzese, che si definiva radicale, socialista, liberale, federalista, europeo, anticlericale, antiproibizionista, antimilitarista, non violento e gandiano. Sarà aperta infatti tra poco, a partire dalle 15 a Montecitorio, la Camera Ardente per l'addio al leader radicale, morto ieri di tumore, 86 anni. Alle 22 la salma sarà trasportata nella sede del partito a Largo Argentina per una veglia. Poi, sabato, tra la gente, il funerale laico a Piazza Navona. Infine, la salma sarà portata a Teramo, sua città natale. Non si fermano i messaggi su Twitter di saluto di militanti e non, di nomi noti e meno noti, tra tutti un Pannella Boy scoperto appunto da un carismatico talent scout. Roberto Giacchetti, candidato sindaco per il centrosinistra a Roma, ha cominciato a fare politica nei movimenti studenteschi e poi a 18 anni nel Partito Radicale fino al 1989. Cosa mi ha insegnato Marco? Tutto. Io sono nato nei Radicali, ero un ragazzetto, e mi ha insegnato soprattutto cosa vuol dire fare politica in modo pulito, in modo onesto. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla cronaca con l'arresto del cosiddetto killer del catamarano. A questa è dedicata l'analisi, il racconto del venerdì, in questo caso del nostro Daniele Biacchessi. Ci sono gialli della cronaca strani, sgambesci, dove troppi elementi del puzzle non si incastrano, non vanno a posto, non tornano. Questa storia inizia il 28 giugno 1988. L'equipaggio del peschereccio Azzurra 83 a largo di Senigallia in provincia di Ancona si appresta a tirare sulla rete. C'è un corpo di una donna avvolto in una coperta e zavorrato da un'ancora legata alle caviglie. 18 giorni prima Filippo De Cristoforo, la sua compagna olandese Diana Beyer affittano un catamarano. Al timone c'è la giovane skipper Annalita Curina. Il gruppo salpa da Pesaro con destinazione Ibiza, ma il viaggio si interrompe molto prima. Poco dopo la colazione, quel giorno stesso, la Curina viene stordita con il Valium e massacrata a colpi di macete. Inizia una folle fuga della coppia che termina in Tunisia con il loro arresto. Poi arrivano i processi, le due evasioni di Filippo De Cristoforo dal carcere di Opera e dall'isola d'Elba, fino all'azione della polizia italiana e portoghese che oggi ha riacciuffato il fuggitivo in Portogallo. È una storia che ha appassionato gli italiani nella lontana estate 1988 e che ha però oscurato sul piano mediatico la tragica fine di Annalita Curina. Si è riunito questa mattina il consiglio di amministrazione di RCS e poi è arrivato il comunicato. L'OPA di Invest Industrial di Andrea Bonomi e dei soci storici di RCS, si legge nella nota, non è stata concordata né preventivamente comunicata alla società. Il consiglio mantiene il proprio obiettivo di creare valore per RCS Media Group nel migliore interesse di tutti gli azionisti, non trascurando alcuna opzione strategica. Dopo Volkswagen anche Opel sotto attacco per le emissioni, ma l'azienda nega, e tutta la vicenda appunto dei consumi e delle emissioni truccate si arricchisce di altri capitoli. Il tema delle emissioni inquinanti dei veicoli e più in generale del loro impatto ambientale torna al centro dell'attenzione e anche della polemica a livello europeo. Il settimanale tedesco Der Spiegel sostiene che i test svolti dal Ministero dei Trasporti di Berlino dopo il Dieselgate hanno evidenziato per 30 modelli di auto consumi e quindi emissioni di CO2 particolarmente elevati, ovvero nettamente superiori a quelli dichiarati anche in condizioni di test comparabili. Tra questi, scrive Der Spiegel, ci sarebbe la Opel Zafira, per la quale il Ministero avrebbe già evidenziato valori elevati di emissioni di ossidi di azoto, cioè proprio gli inquinanti al centro del Dieselgate. Ieri intanto i test condotti in Germania hanno innescato una polemica internazionale quando la Fiat Chrysler ha disertato una convocazione a Berlino affermando di dover rispondere solo alle autorità italiane. Il ministro dei trasporti tedesco Dobrindt non l'ha presa bene, mentre il suo omologo italiano Del Rio ha sostenuto la posizione di FCA. Poiché le norme europee su consumi e inquinamento sono uniche, ma ogni paese ha la sua autorità di controllo, il rischio è di un tutti contro tutti che potrebbe frenare quelli che dovrebbero essere i veri obiettivi: stabilire un percorso condiviso verso la riduzione delle emissioni inquinanti e test credibili per farlo rispettare. Andrea Malan, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso parliamo di un gruppo in difficoltà, il gruppo GAP. Messo sotto pressione dalle vendite in calo, Gap decide il ridimensionamento. Il colosso americano dell'abbigliamento ha annunciato la chiusura di 75 negozi, soprattutto all'estero, inclusi i 53 punti vendita a marchio Old Navy in Giappone. La misura comporterà costi per 300 milioni di dollari, una perdita annuale di 250 nelle vendite, ma nel lungo termine permetterà risparmi per 275 milioni all'anno e un miglioramento dei margini di quasi il 2%. Le ambizioni di crescita del brand Old Navy, su cui la capogruppo aveva scommesso anche per il mercato asiatico, saranno ancorate al Nord America, ha spiegato Gap. L'azienda, che non ha confermato i target finanziari forniti a febbraio, scende anche nel rating di Standard & Poor's, da BBB- a BB+. Da inizio anno Gap ha perso il 30%, segno delle pressioni, osservano gli analisti, esercitate da rivali come Zara ed H&M. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo di Claudio Ranieri, che ottiene un'onorificenza dal Presidente della Repubblica dopo la vittoria nella Premier con il Leicester. Sono quei paradossi del calcio, ma forse della vita in generale, che ci danno un senso di benessere. Claudio Ranieri, l'allenatore dell'Leicester, la squadra che dalle stalle è andata alle stelle, diventerà, udite udite, grande ufficiale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha infatti firmato il decreto di conferimento dell'onorificenza di grande ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Una onorificenza, diciamolo, che farebbe impallidire chiunque e che ancor più contrasta con la figura di Claudio Ranieri, uomo di basso profilo che, quando gli chiedevano che cosa volesse fare con l'Esta e ormai aveva quasi vinto il campionato inglese, rispondeva: l'importante è non andare in B. È bello che a Ranieri, romano del testaccio, figlio del signor Mario che aveva la macelleria in piazza, venga dato un simile riconoscimento, come se qualcuno in alto rimettesse le cose a posto. Del resto, qualcuno ancor più in alto di Mattarella aveva detto che gli ultimi saranno i primi. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, come sempre, poi nella seconda parte della trasmissione inizieremo, come di consueto, il nostro giro per l'Italia, e inizieremo da un paesino del Cuneese. C'è stato un sindaco arrestato per corruzione. Il paradosso è che il sindaco di un paese di 77 abitanti. Ci sposteremo a Cortina, perché una roccia, la notizia è di poco fa, una roccia, una grossa porzione di roccia si è staccata dal gruppo del Sorapis e c'è un certo allarme, perché negli anni scorsi ci furono parecchi problemi dovuti che furono creati alla viabilità e alle persone che abitano in zona. E poi andremo a Milano per una manifestazione importante che si apre oggi, una manifestazione musicale. A tra poco, traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Oggi in diretta dall'Investment and Trading Forum di Rimini, al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del rapporto dell'Istat che ci racconta che 6 giovani su 10 vivono in casa con i genitori, alcuni fino ad oltre 30 anni, e crescono le disuguaglianze nel paese. Abbiamo parlato dell'aereo dell'Egyptair precipitato in mare, è notizia di pochi istanti fa che il governo di Atene, il Ministero della Difesa greco, riferisce che sono stati trovati alcuni resti umani, 2 sedili e alcune valigie dell'aereo. Si sta ovviamente cercando la scatola nera. Vi abbiamo parlato del cosiddetto killer del catamarano, che è stato arrestato in Portogallo, fu protagonista di un assassino avvenuto nel 1988. Abbiamo parlato del mondo della scuola in piazza e in sciopero, di immigrazione, e adesso iniziamo il nostro consueto giro per l'Italia, iniziando dal Cuneese, dove c'è stato un arresto per corruzione, per così dire, un po' particolare. Filomena Greco del Sole 24 Ore da Torino, eccoci Filomena, cosa è successo? Buongiorno. Sì Simone, buongiorno a te, una storia se vogliamo bizzarra ma anche sconfortante, se le accuse dovessero risultare poi confermate dalle indagini e dal procedimento che ne seguirà. Comunque, si tratta, come anticipavi, di una storia di appalti truccati da cui è scaturito il mandato di arresto ai domiciliari notificato al sindaco di Argentera, che si chiama Arnaldo Giavelli. E Argentera, questa è la prima curiosità, è un paesino di neanche 100 abitanti in provincia di Cuneo, quindi un paesino nelle vallate, insomma, di quell'area della regione, quasi al confine con la Francia. Arresto ai domiciliari anche per l'imprenditore Giuseppe Massano, amministratore della Massano. L'accusa mossa ai due, dopo, lo ricordiamo, un anno di lavoro da parte della Guardia di Finanza e con la decisione del GIP, il giudice per le indagini preliminari che ha deciso naturalmente questa misura cautelativa, l'accusa, dicevamo, è di turbativa d'asta in gare d'appalto per lavori pubblici svolti, però come poi è emerso durante le indagini, non solo ad Argentera ma in molte altre aree del nord-ovest che avrebbero coinvolto quindi anche altre aziende. In particolare le accuse rivolte al sindaco riguardano due gare indette dal piccolo comune, un comune di 100 abitanti, lo ricordiamo, neanche 77, la prima per, così dice almeno Wikipedia, la prima per assegnare lavori a seguito di un finanziamento di 1 milione di euro ottenuto nell'ambito del programma denominato 6.000 campanili, la seconda invece per la ristrutturazione direttamente della sede del municipio. La gara, e in particolare in un caso la pilotata, l'imprenditore, questo è quanto ipotizzano gli inquirenti, avrebbe favorito, concordando la percentuale di ribasso contenuta nella sua offerta, avrebbe favorito l'assegnazione dei lavori ad un'altra azienda in cui erano soci e amministratori la moglie e il suocero del sindaco di Argentera. Certo che tra 77 abitanti, insomma, come minimo si è tutti imparentati o conoscenti, quindi sì, il tutto è partito da controllo. Era abbastanza facile, per così dire. Sì. Era abbastanza facile, ma altrettanto sconfortante che anche poi in dimensioni così limitate, per importi tutto sommato comunque significativi, si mette in atto una condotta criminosa che poi porta a queste conseguenze. Di questo già. Poi vedremo ovviamente se le accuse saranno provate. Da cosa è partita la cosa, Filomena? Sì, la cosa è partita dai controlli di routine della Guardia di Finanza sui documenti contabili di questa azienda e poi dal tentativo successivo dei responsabili di occultare la documentazione relativa a questa dinamica delle gare. C'erano delle tracce, delle lettere in cui erano spiegati questi meccanismi, questi impegni, diciamo, presi gli uni con gli altri. Dalle successive perquisizioni nelle sedi di altre imprese coinvolte, poi attraverso le intercettazioni delle conversazioni delle persone indagate, è emerso che Massano, in concorso con altre persone, avrebbe interferito non soltanto in queste gare ma in altre 4 gare d'appalto indette nel 2014 da altri comuni, Moncalieri, Entracque, Vigevano e Milano, quindi una condotta, diciamo, ripetuta, da qui la decisione del GIP. Ti ringrazio, grazie a Filomena Greco del Sole 24 Ore da Torino per essere stata con noi. Andrea Franceschi, sindaco di Cortina, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, la notizia è di poco fa, di un'ora fa circa, una grossa porzione di roccia si è staccata dal gruppo del Sorapis e il botto si è sentito anche da voi, mi sembra di aver capito. Cosa è successo? Beh sì, quando ci sono questi distacchi di, diciamo, consistenti di materiale dalle montagne, poi il boato è veramente impressionante, sembra, insomma, di sentire un tuono prolungato nel tempo, poi si vedono le nuvole di polvere, quindi effettivamente l'abbiamo sentito e visto dal paese. Non è il primo in questi giorni, forse oggi la quantità di materiale effettivamente sembra essere un po' più consistente degli ultimi distacchi. Degli ultimi distacchi. E l'anno scorso, lo ricordiamo, sindaco, uno di questi distacchi creò parecchi problemi da voi, no? Beh, l'anno scorso per ben 4 volte la frana, diciamo, è partita e ha invaso completamente la carreggiata della statale 51 e quindi abbiamo avuto per 4 volte l'interruzione della viabilità dell'accesso da sud. Fortunatamente è sempre andata bene, nel senso che non è rimasto mai coinvolto nessuna persona, nessuna automobile, ma è evidente che la preoccupazione, il pensiero è molto ampio e, insomma, ci accende un'estate impegnativa sicuramente, almeno come quella dell'anno scorso. E certo, perché, ma si stanno facendo più frequenti negli anni questi distacchi, sindaco, o è un, come dire, banalmente un processo geologico normale o appunto si stanno facendo più frequenti e quindi siete più preoccupati? Questo non l'ho capito. Ma diciamo che ovviamente è un fenomeno fisiologico, le montagne, le Dolomiti sono molto giovani, quindi hanno da una parte la bellezza, dall'altra parte appunto la franosità, come dire, però l'intensificazione dei fenomeni è sicuramente visibile, sia perché ci sono queste piogge molto forti, molto concentrate nel tempo, che nel passato non c'erano, quindi queste bombe d'acqua fanno sì che il territorio non riesca proprio a smaltirle, fanno partire appunto tutto il materiale che si accumula. E poi credo anche l'innalzamento delle temperature fa sì che si sia sciolto buona parte del permafrost, che è quella sostanza che tiene unite appunto le rocce, e quindi questo crea anche dei distacchi proprio da parte del compressorio in montagna. E queste due cose combinate fanno sì che ovviamente si verifichino con più frequenza quei fenomeni che ci sono, certo, sempre stati, ma appunto non con questi numeri, non con questa ripetitività. Sì. Allora Sindaco, io intanto la ringrazio e non posso che augurarle evidentemente in bocca al lupo per quest'estate e speriamo che non ci siano appunto distacchi più gravi. La politica ci porta anche in questo caso in una città, ci porta ad un sindaco che è un po' sotto attacco, è il sindaco di Parma del Movimento 5 Stelle, Federico Pizzarotti, questa mattina è intervenuto a 24 Mattino Attenti a Noi Due, ospite dunque di Alessandro Milan e Oscar Giannino. Sentiamo cosa gli ha detto. Da quanto tempo non lo sente Beppe Grillo? Direi almeno 2 anni, più o meno. Insomma, comunque... È vero che dovesse arrivare l'espulsione, qualcuno dice lei farebbe ricorso, nel senso sarebbe passata anche questa norma così già detta, salva Pizzarotti in Parlamento. Questo non lo so, ho sentito anche io questo sì. Nome strano, ma non ho avuto modo di andare a verificare. Però era suo ricorso, comunque noi comunque ci stiamo pensando, perché in ultima analisi pensiamo... ripeto, che anche il processo non sia stato processo nel senso di iter seguito non sia stato corretto, e io penso che vada dimostrato. Quando si pensa di avere ragione bisogna anche cercarla in tutte le sedi, anche per dare un segnale, soprattutto rispetto al fatto che le regole si insegnano con l'esempio. Anche in un tribunale? Quindi anche in un tribunale? Anche potrebbe essere anche quella l'ultima istanza, però non mettiamo il carro, come dire, davanti ai buoi, come si dice, ma vediamo lungo il percorso se ci sarà la voglia. Io l'unica cosa che dico, che penso che comunque sia paradossale, è che comunque dalla settimana scorsa nessuno mi ha chiamato. Così dunque Pizzarotti. Allora, qua a Rimini, dove ci troviamo noi e da dove vi trasmettiamo, è una brutta giornata, ma sappiamo che a Milano, ci dicono i colleghi, è una splendida giornata. Quindi è un'ottima occasione, perché da oggi parte una bella manifestazione. 50 ore di musica ininterrotta, 400 concerti, è la maratona del pianoforte di Piano City, che da 5 anni in primavera invade la città. Ovunque ingresso libero, inaugurazione stasera ai giardini di Villa Reale con il grande compositore Michael Nyman. Uno dei membri della direzione artistica, Ricciarda Belgioioso, al microfono di Adriana Fracchia. Quest'anno abbiamo esagerato, sono più di 400, è la partecipazione dei pianisti e delle proposte che ci fa arrivare a dei numeri così alti. Sono grandi numeri che forse permettono una qualità anche dei concerti. Abbiamo pianisti di ogni genere, dal più giovane al grande maestro, c'è anche una varietà di modi di intendere pianoforte. Poi la caratteristica di Piano City è questa dei luoghi, diciamo, non tradizionalmente pensati come sale da concerto, cioè Piano City in effetti invade la città in tutti i sensi. Segnalo Barami, che quest'anno propone un programma di Bach for Babies e per cui sarà collocato al MUBA. Bruno Canino, Gianluca Cascioli. A proposito di giovani, abbiamo Coppin, che è un altro milanese, ma non solo, abbiamo anche Cesare Picco e Iannacci, Enrico Intra, quindi i grandi milanesi ce li abbiamo. Allargandoci un po' a scala nazionale e internazionale, abbiamo Bollani, Michael Nyman apre Piano City. No, devo dire che i grandi nomi non mancano. Così dunque Milano. Noi adesso ci fermiamo, come sempre andiamo a sentire che cosa succede sui mercati, poi visto che siamo qua a DT Forum e abbiamo l'occasione del rapporto annuale dell'Istat, ci occuperemo di come si comportano i giovani dal punto di vista finanziario, e poi per tornare sul territorio a Teramo per capire come si stanno preparando per i funerali del loro cittadino eccellente Marco Pannella. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: sono stati trovati rottami e dei resti umani dell'aereo Egyptair precipitato in mare. La Marina del Cairo sta cercando la scatola nera. 6 giovani su 10 vivono in casa con i genitori, alcuni fino a oltre 30 anni, dice l'Istat, e crescono le disuguaglianze. Era stato in Portogallo il killer del catamarano, uccise una skipper nel 98 e fuggì dal carcere 2 volte. Mondo della scuola in piazza in sciopero, i sindacati chiedono il rinnovo del contratto, a Roma parzialmente fermi anche i bus e caos in centro. La borsa. Effetto giorno. Vi abbiamo raccontato dei contenuti del rapporto annuale dell'Istat diffuso questa mattina, un rapporto annuale che come sempre tocca tantissimi temi, tocca il come siamo cambiati, come ci stiamo evolvendo noi italiani, da un quadro anche economico del paese e da un quadro anche su, per così dire, singoli segmenti sociali di questo paese, come per esempio i cosiddetti millennials, quelli nati per così dire gli anni 2000, ma i giovani in genere, quelli nati a partire dagli anni 80. La generazione del millennio, dice l'Istat, resta più a lungo a casa con i genitori, e questo lo sapevamo, posticipa le classiche tappe dell'età adulta come matrimonio, convivenza, figli, ma dice l'Istat non sono bamboccioni. Siamo in diretta da ITF Forum a Rimini, come sapete, e quindi vogliamo occuparci dell'aspetto finanziario di tutto questo, perché anche di questo questa mattina si è discusso. Lo facciamo con Nicola Ronchetti, che è Business Director di GFK Eurisco. Ronchetti, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, come si comportano questi ragazzi dal punto di vista finanziario? Allora, innanzitutto dobbiamo dividerli tra quelli che hanno, diciamo, nascono negli anni 80 fino al 2000, quindi diciamo che dai 18 ai 25 anni non hanno ancora una cultura finanziaria, un rapporto ancora molto adolescenziale col denaro. I 25-35 anni invece hanno un ruolo fondamentale, non tanto in quanto investitori finali, quindi infatti l'industria del risparmio li snobba perché non hanno ancora delle risorse finanziarie degne di una gestione attiva, ma in quanto mediatori culturali con le generazioni che li precedono, cioè i loro padri e i loro nonni, direi, nel senso che l'offerta finanziaria viaggia sempre di più su piattaforme digitali, le piattaforme digitali richiedono delle competenze di accesso e costoro rappresentano dei veri e propri mediatori culturali, quindi è un ruolo sempre più importante come, diciamo, decisori o co-decisori nelle scelte di investimento. Anche perché rimangono così tanto in casa? Anche perché rimangono così tanto a casa e devono in qualche modo assicurarsi che il patrimonio familiare, che su cui al di là delle battute contano e dovranno contare sempre più nel futuro, venga valorizzato, e quindi è un ruolo anche di tutori, se possiamo dire, del proprio futuro. Il quadro che ci rappresenta l'Istat oggi ci racconta anche, e anche questo lo sapevamo ma viene confermato dai dati, che siamo un paese sempre più vecchio, e questo ovviamente ha un impatto su quelli che sono i conti pensionistici inevitabilmente in futuro. È pensabile che evidentemente questi ragazzi non possano godere di quello che hanno goduto i loro padri o i loro nonni. Dunque, si stanno organizzando oppure no? Assolutamente no, non hanno nella loro agenda nessuno di questi argomenti. Probabilmente verranno sensibilizzati dall'arrivo delle buste arancioni. Il tema fondamentale è che oggi il vero ammortizzatore sociale in Italia, non oggi ma da qualche anno, è costituito dal risparmio delle famiglie italiane. In Arabia abbiamo il petrolio, in Italia abbiamo il risparmio. Questo è il vero vantaggio, e quindi una gestione oculata del risparmio familiare delle generazioni precedenti sicuramente può garantire loro una più serena maturità. Per quanto pesantemente eroso dalla crisi. Eroso dalla crisi, sì, però è vero che ci sono oggi delle opportunità di investimento che, se affrontate, possono garantire comunque il valore del patrimonio nel tempo. Io quindi credo che il tema della cultura finanziaria, dell'interesse verso prodotti che non siano il parcheggio del denaro sul conto corrente, possano rappresentare sicuramente un vantaggio, quantomeno in termini di integrazione. Poi c'è il tema della previdenza integrativa, che però oggi è questa sconosciuta, anche se le nostre stime danno un raddoppio degli investimenti in questa direzione, quantomeno nel prossimo decennio. Bene, bene, bene, la ringrazio. Grazie a Nicola Ronchetti per essere stato con noi. Dopo questa parentesi torniamo al nostro giro per l'Italia e ci spostiamo a Teramo. Teramo che ha vissuto un lutto, perché ieri è scomparso forse il suo cittadino più noto, che è Marco Pannella. E siamo in linea con il sindaco Maurizio Brucchi. Sindaco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Io so che lei adesso sta andando ovviamente alla camera ardente di Marco Pannella. Mi dice come vi state organizzando invece da voi a Teramo, dove poi Pannella sarà sepolto? Sì, guardi, Marco Pannella arriverà a Teramo domenica mattina all'1, quindi subito dopo la mezzanotte, in sala consiliare dove è stata allestita la camera ardente, e ci resterà fino alle 15 di domenica. Sindaco, la stiamo perdendo, riproviamo un po', vediamo di capire com'è programmata la cosa. Ci sente, Brucchi? Sì, io vi sento bene, sono in viaggio e magari ogni tanto stiamo a via. Non lo so, poi dall'Abruzzo a Roma comunque la strada evidentemente non la A24 non consente una connessione adeguata. Allora, riproviamo. Brucchi, ci racconti un po' che cosa succede. Allora, dicevo che... Diceva che, ma evidentemente non ce la facciamo. Va bene, allora proveremo eventualmente, insomma, a sentire il sindaco di Teramo o nelle prossime edizioni del giornale radio, o magari gli faremo una telefonata lunedì, vedremo se riusciremo a risentirlo. Intanto noi facciamo così, adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, come sempre Mario Platero, e ci risentiamo alla fine per i saluti.